1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari italiani, settimana numero 136, decisiva per l'abolizione delle province, che se ne va, termina, fugge, va a compimento, evviva, evviva. E allora, niente, confidiamo nella 137esima che inizierà ben lunedì prossimo, staremo a vedere. Intanto oggi parleremo un po' tra gli ospiti con Matteo Richetti, deputato del Partito Democratico, che si è messo in mente di fare questa legge per ricalcolare i vitalizi degli ex deputati, anche col sistema contributivo. Magari c'è anche un modo per risparmiare qualcosa, ce lo spiegherà. Parleremo di tante tematiche anche con Oscar Giannino, sempre la questione delle banche certamente in primo piano, e proprio di banche parlano tutti i giornali. L'apertura è unanime oggi. Venerdì 11 dicembre, allora andiamo a vederli proprio i titoli. Il Sole 24 Ore apre così: banche, fondo di solidarietà e un arbitro caso per caso. Per il Corriere della Sera, banche, lo schiaffo dell'Europa. Anche Repubblica, Unione Europea, accuse a governo e Banca Italia, ai risparmiatori bond invendibili. La Stampa, banche, ecco il salva obbligazionisti. Per il Messaggero, crack banche, rimborsi più ampi, in arrivo il fondo decennale per risarcire i risparmiatori. Come vedete i titoli sono tutti sulla questione banche. È il Fatto Quotidiano, banche, PD, Forza Italia e Lega contro l'Unione Europea, ma hanno votato contro le vittime. Libero, la banca del pensionato suicida butta i soldi in yacht fantasma. Per il Giornale, il salva banche non salva Renzi, il governo rischia il crack. E poi ancora, Avvenire, il banco piange, l'Unità, indagare senza risparmio. Il Manifesto, chi paga il conto? C'è la foto di una vittima del salva banche che mostra un cartello: ridateci tutti i nostri soldi. Insomma, come vedete, è la notizia scelta da tutti i quotidiani per l'apertura. Ma andiamo con ordine, la vedremo più tardi. Prima voglio parlare di qualche notizia relativa all'immigrazione e ai migranti. Attenzione, perché, come scrivono tutti i giornali, leggo dal Corriere della Sera, pagina 21, Fiorenza Sarzanini, l'Italia è sotto accusa per la gestione dell'immigrazione. L'Unione Europea, la Commissione Europea, ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro paese in materia di immigrazione. Malgrado gli sforzi compiuti dall'Italia per ampliare capacità di rilevamento delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi, le statistiche continuano a mostrare ampie discrepanze nei dati trasmessi al sistema centrale, che si chiama Eurodac. Questo è il duro atto d'accusa della Commissione Europea, che apre così una procedura di infrazione in materia di immigrazione contro il nostro Paese. Si evidenzia l'elargizione di fondi decisa proprio per sostenere l'Italia e dunque a dire che potrebbe arrivare una sanzione molto alta, con Renzi che si arrabbia e dice che l'Europa non sta facendo tutto ciò che deve. L'accusa della Commissione Europea è questa: dal 20 luglio 2015, quando è entrato in vigore il regolamento Eurodac, fino a novembre 2015, quindi in 3-4 mesi, i dati relativi agli arrivi irregolari mostrano questo: 65.050 cittadini sono arrivati via mare e sono state rilevate le impronte digitali solamente di 29.176 di questi cittadini. Quindi l'Italia non sta facendo il proprio dovere, questo dice l'Europa. E l'infrazione è rischiosa, perché rischiamo ovviamente multe da Bruxelles. A proposito di immigrati, fa molto discutere, almeno sui giornali, la proposta della regione Lombardia, che non ha fatto una legge, perché la legge c'è già, come ha detto anche il governatore della Lombardia Maroni, ma ha fatto un regolamento per recepire la legge esistente, quella del 1975, in cui si vieta qualsiasi strumento che impedisca il riconoscimento del volto nei luoghi pubblici. Tradotto, hanno fatto un regolamento per impedire l'uso del burka o del niqab, del velo integrale, ci sono vari nomi ovviamente a seconda del velo, in luoghi come gli uffici pubblici e gli ospedali. La svolta di Maroni, no al velo integrale in uffici ospedali. Ovviamente la polemica è questa, e cioè che il ministro della giustizia dice proprio la legge, visto che c'è già, tutto questo appare come un qualcosa di sapore simbolico, propagandistico, mentre Maroni replica la regione Lombardia, proprio siccome c'è la legge, non abbiamo fatto una nuova legge, ma applicheremo questo regolamento in maniera restrittiva. Ci sono già le polemiche perché Alessandra Kusterman, che è primario della clinica Mangiagalli, la clinica dove nasce la maggior parte dei bambini, tra l'altro a Milano, dice qui, a parte che mi è capitato raramente di vedere donne totalmente velate e che tra l'altro si svelano appena entrano in ambulatorio, e comunque non c'è bisogno di sollecitarle, nessuno fa storie e non applicheremo nessun tipo di divieto. Quindi è una polemica di quelle che durano 24 ore, per carità, sui giornali, ma anche Il Giorno dedica una pagina. Lombardia, giro di vite sul burka. Poi il burka sinceramente non si è davvero mai visto, semmai il velo integrale, il niqab, il burka, quello afghano con la rete, davvero è raro. Vietato ovunque, anche in ospedale, questo è ciò che decide. Tra l'altro, a proposito di immigrazione, o meglio di, diciamo, persone che sono in questo caso italiana, italianissimo, ma originario di un altro paese, marocchino, c'è un giallo riguardante Khalid Shaouki, deputato del Partito Democratico. Sentite cosa scrive Il Giornale, Giuseppe De Lorenzo, a pagina 9. Shaouki finisce nel dossier del Ministero della Difesa tra i leader islamici radicali. È un po' un giallo, proprio perché questo documento, tra l'altro documento governativo, perché il Ministero della Difesa, e Shaouki è, pensate, il responsabile dell'immigrazione del Partito Democratico, è finito però in un dossier del Ministero della Difesa sul radicalismo islamico. Questo perché è una vicenda già nota. Shaouki ha partecipato a un video di un rapper marocchino. In questo video si inneggiava la violenza e il terrorismo, secondo questo dossier del Ministero della Difesa, anche contro gli italiani. In più sarebbe comparso nel video della canzone nella veste di un preside severo che punisce umiliandolo un bambino italiano per aver scritto sul muro a scuola. Storie già note. Sta di fatto che Khalid Shaouki, secondo Il Giornale, finisce in questo dossier del Ministero della Difesa tra i leader islamici radicali. Poi però lo stesso giornale dice che questo dossier non viene più reso disponibile pubblicamente sul sito del Ministero della Difesa. Bah, gialli. A proposito di gialli, oggi, non so se lo sapete, ma ci sarà la parola fine per la questione, molto probabilmente, diciamo al 99% in Italia la parola fine non si può mai dire di nulla, sulla vicenda del delitto di Garlasco. Il delitto di Chiara Poggi, Alberto Stasi è l'unico imputato, sapete che è stato prima assolto, poi rimandato il processo, poi rifatto. Alla fine Alberto Stasi è stato condannato in appello a 16 anni di carcere. Oggi la Cassazione metterà la parola fine, ripeto al 99%, perché potrebbe esserci anche l'annullamento con rinvio perché si faccia un nuovo processo d'appello, ma in realtà in pochi, come racconta La Stampa con Claudio Bressani a pagina 17, credono a questa possibilità. È più probabile che ci saranno due strade: o la conferma della sentenza di condanna a 16 anni e dunque il carcere per Alberto Stasi a partire da questa sera, oppure l'assoluzione definitiva è irrevocabile perché c'è l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione. Comunque La Stampa e anche Il Secolo XIX dedica una pagina proprio a questo. La mamma di Chiara: ho fiducia nella giustizia, dice Alberto, non l'ho mai incontrato, l'ho visto solo ai processi ma mai privatamente, non l'ho mai incontrato. Insomma, oggi è la parola fine per una vicenda giudiziaria e un caso di cronaca che ci riporta al 13 agosto 2007, dunque 8 anni fa, con Chiara Poggi uccisa e oggi Alberto Stasi, unico imputato che davvero rischia 16 anni di carcere. A proposito di processi, ecco qui l'articolo che mi fa più incazzare della giornata, l'articolo che ci fa tenere a tutti le mani strette, voi mani sul volante, noi mani sul microfono, caffè bollenti da appoggiare, avete appoggiato tutte le cose che sono possibili come oggetti contundenti, Alessia Pedrielli su Libero, fanno il processo a uno svitato che ruba 4 ostie. Succede a Trento, dove uno svitato, all'inizio si pensava a un episodio legato al satanismo, invece era proprio uno svitato, uno sbandato che è entrato in una chiesa, ha visto una bustina sull'altare, l'ha presa, dentro c'erano 4 ostie, ha detto intanto me la prendo che così magari la rivendo per quella, il parroco l'ha perdonata, gli ha detto ma sì, lo conosciamo, è uno sbandato eccetera. No, il giudice dice no, inflessibile, va processato. Peraltro gli è stata contestata l'aggravante di aver commesso il fatto in luogo pubblico e dunque anche volendo il parroco non può ritirare la querela. E così quella che potrebbe essere una disavventura finita con l'ecumenico abbraccio del prete al ladro diventa un processo come gli altri, costoso, perché ci sono i professionisti al lavoro, i cancellieri, gli avvocati, i giudici. La prima udienza si è tenuta ieri, la seconda ci sarà a febbraio, a 10 mesi dal furto, e poi ci sarà il processo, e poi ci sarà l'appello, e poi ci sarà la Cassazione. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, ciao. Continua così, va avanti così, va bene così. Bravo, bravo Alessandro, bravo. Dici qui le tue notizie, grazie. E noi ascoltiamo. Bravo. Ecco, grazie. Allora, 7:36 minuti, grazie caro ascoltatore. Le banche, come abbiamo detto l'apertura di tutti i quotidiani, come orientarsi nei tanti articoli che ci sono sulle banche. Beh, intanto oggi vi segnalo, ovviamente è solo 24 ore, ma a maggior ragione perché ci sono tutti i dettagli di quello che è successo e di quello che succederà ora. Quello che è successo ieri, l'accusa molto dura dell'Unione Europea con il commissario Hill, il commissario agli affari finanziari Jonathan Hill, che ha ribadito in pratica che le banche italiane in questione soprattutto hanno venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati. È un'accusa molto molto dura, è ciò che insomma con Oscar Giannino ribadiva da tempo e ieri ancora nei giorni scorsi abbiamo detto e oggi ribadiremo, ma ora l'accusa arriva dall'Unione Europea e lo scontro è molto forte con la Banca Italia. Tra l'altro Marco Mobili racconta invece a pagina 3 cosa succederà ora. Un fondo di solidarietà per dar sollievo agli obbligazionisti subordinati che hanno perso i loro risparmi. Ma non solo, allo studio del Ministero del Tesoro c'è anche il ricorso a una procedura di arbitrato veloce chiamata a valutare caso per caso. Una tutela stragiudiziale sulla falsa riga di quanto ciò è accaduto in occasione del salvataggio delle banche spagnole, dove i detentori di obbligazioni hanno ottenuto l'invalidità dei contratti di acquisto dovendo e potendo dimostrare di non aver dato il consenso all'acquisto di questi strumenti, ovvero che la banca ha sottostimato e non presentato adeguatamente ai clienti i rischi legati alle obbligazioni oggetto di salvataggio. Una sorta di primo filtro dunque per verificare l'accettabilità del ricorso a livello di singola banca da parte di un soggetto terzo. E a gestire questo arbitrato nella penisola iberica è stata chiamata la Consob spagnola. Succederà così anche in Italia? Ovviamente questi sono i dettagli delle operazioni di salvataggio. Però intanto ci sono le polemiche che imperversano. Beh, interessante l'intervista al direttore generale di Banca Italia Salvatore Rossi, intervistato da Daniele Manca sul Corriere della Sera. Trovate l'intervista a pagina 3. Intanto Salvatore Rossi respinge le accuse al mittente dicendo: la verità è questa, il governatore di Banca Italia Visco in tempi non sospetti ha chiesto di arrivare a vietare la vendita di obbligazioni subordinate agli sportelli in modo che solo investitori istituzionali potessero acquistarli e non i semplici risparmiatori. Questa dunque è una risposta all'Unione Europea. Dice: ma noi già abbiamo proposto questo. La verità è che non possiamo intervenire, non possiamo vietare di vendere questo o quel prodotto. Non abbiamo poteri così ampi. E ricordo che a vigilare sulla sollecitazione al risparmio è preposta un'altra autorità. Beh, però il commissario Hill con l'Europa sembra voler accusare voi e l'Italia in generale. Vorrei evitare di entrare nel solito gioco Italia contro Europa, dice il direttore generale di Banca Italia. È innegabile però che ci sia stata una diversità di vedute tra autorità italiane, il governo in primis, ma anche noi e Bruxelles, o meglio la direzione generale alla concorrenza. Quest'ultima ci ha di fatto spinto a seguire la strada oggi criticata che ha portato al salvataggio di Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti ed Etruria. Oh, ci sono poi i dettagli intanto della tragedia umana, il racconto della moglie del pensionato suicida. Vi invito a leggere Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera, pagina 5, la storia di Luigino D'Angelo, che per giorni si recava allo sportello della Banca Etruria a Civitavecchia per cercare di capire che fare, e per giorni si sentiva dire: non c'è niente da fare, è tardi, lei ha firmato. Ora la procura indaga per istigazione al suicidio, la moglie dice dovranno pagare, ci hanno tolto 110.000 euro. Il grande dibattito ovviamente, che deve anche rispettare la tragedia umana, e cioè insomma effettivamente ha firmato, però di fronte a una persona che si toglie la vita il discorso è anche altro. E poi ci sono le polemiche politiche, le storie incredibili. Per esempio Alberto Statera, Banca Etruria, banca spolpata tra fidi a consiglieri e yacht fantasma. Pagina 8 di Repubblica, Alberto Statera: ruggisce la chimera di Arezzo verso i 13 ricchi ex amministratori e 5 ex sindaci di Banca Etruria, che probabilmente non restituiranno mai i 185 milioni che si sono autoconcessi, con 198 posizioni di fido e finiti in sofferenza e in incaglio, settore che in banca veniva curato da Emanuele Boschi, il fratello del superministro Maria Elena. Né restituiranno i 14 milioni riscossi di gettoni degli ultimi 5 anni, figurarsi poi i 20 primi sofferenti per oltre 200 milioni. Insomma, inizia da qui lo spolpamento, come dice Statera, di Banca Etruria, con storie incredibili come quella del prestito di 34 milioni a una società, la Privilege Yard SPA di Civitavecchia, che doveva costruire un yacht di 127 metri, si diceva, di Brad Pitt e Angelina Jolie, e poi non hanno fatto nulla. Questa storia, tra l'altro, è l'apertura proprio di Libero, raccontata da Giacomo Amadori nei dettagli, come la popolare Etruria ha buttato soldi in questa fantomatica società che doveva costruire uno yacht e poi ha costruito yacht fantasma, cioè non ha costruito nulla. La banca, salvata dal governo, ha prestato 34 milioni a una società che doveva costruire Panfili, ma è fallita senza realizzarne nemmeno uno. Società che, tra l'altro, scrive Libero, elargiva erogazioni al cardinal Bertone. Cioè, c'è una vicenda che, come al solito, tira dentro in ballo un po' tutti. Da questa azienda che doveva costruire yacht, ha preso 34 milioni di euro dalla popolare Etruria, non ha costruito manco uno yacht, è fallita, finivano vari soldi e vari bonifici che dovevano, secondo il cardinal Bertone, finire in beneficenza al cardinal Bertone, per l'appunto. Vabbè, i dettagli sono tutti su Libero, pagina 3. Come sempre su Libero, Mario Giordano racconta, prendendo un po' da quello che aveva già raccontato in un libro un anno fa, la storia di Popolare Marche, Banca Marche, con il direttore generale Bianconi, che in pratica è una storia di un acquisto molto strana di un immobile comprato a 7 milioni di euro e riaffittato lo stesso giorno da Bianconi a una cifra maggiore che gli consentiva un guadagno netto di 13.000 euro al mese dell'affitto. Cioè l'ha comprato a 37.000 euro al mese a rate, questo immobile, ma nello stesso giorno ha firmato un contratto che lo affittava a 50.000 euro al mese. Come scrive Giordano, insomma, tutti quando acquistano una casa devono pagare il mutuo. Loro invece diventano proprietari di una palazzina del valore di 7 milioni senza pagare un centesimo, anzi, nel momento in cui acquistano questa palazzina stanno già incassando 13.000 euro al mese di affitto ogni santo mese che cade sulla terra. Si sapeva tutto? Questo adesso è quello che si dice, però intanto è quello che viene fuori. Ah, tra l'altro Maria Elena Boschi ieri, che non ha solo il fratello ma anche il padre, che è stato vicepresidente di Banca Etruria, per la prima volta alla presentazione del libro di Bruno Vespa, presentazione che era il numero 400 del libro di Bruno Vespa, ha detto: mio padre è una persona per bene e mi sento un po' in colpa nei confronti della mia famiglia, perché se è finito nelle cronache è perché è mio padre e mi dispiace. Comunque non faremo certamente provvedimenti ad persona. Mauro Meazza, bella storiaccia questa, eh? Buongiorno caro Alessandro, sì, devo dire che si sta, come dire, avvitando vie più, come spiega anche l'editoriale nostro di oggi di Alessandro Platerotti, cioè si rischia un po' di alzare più polverone che aiutare poi invece le persone che si sono trovate coinvolte dalla vicenda. E poi c'è, insomma, questo strano morbo che sembra colpire talvolta i funzionari, i vertici di Bruxelles, che così improvvisamente scoprono un rigore, ma forse che non è stato applicato allo stesso modo. Ma leggi Ferrando a pagina 2 oggi, ti consiglio di leggere Marco Ferrando, oltre che l'editoriale di Alessandro Platerotti. Poi appunto tutti ti fiamo per il fondo di solidarietà, naturalmente, che darebbe almeno un parziale ristoro alle persone che sono state coinvolte dalla vicenda. Tutti i dettagli, come spiegavi, sul Sole 24 Ore, sul quale parliamo anche di altro, lo sto consultando dal tablet, come ormai molti dei lettori, perché ieri è stata data notizia che il Sole 24 Ore è il quotidiano digitalmente più letto, cioè col primato digitale, ci fa molto piacere. E volevo dirti, parliamo anche di legge di stabilità, naturalmente, perché la legge di stabilità prosegue il suo cammino, siamo alla commissione, ci sono delle novità in arrivo sulla precompilata, te la ricordi la precompilata? Come no? La faremo anche l'anno prossimo. Ci sarà una sorta di maggiore comprensione per errori di tipo lieve per la precompilata. Oh, e poi naturalmente ti ricordo che oggi sul Sole 24 Ore, visto che abbiamo parlato, abbiamo dovuto parlare parecchio di banche e risparmi, c'è una guida ai mutui. Perché questa guida? Perché il mercato sta un pochino ripartendo, le richieste stanno aumentando, sono tutte cose che diciamo naturalmente con le dita incrociate, non con le mani sul volante, ma è il caso allora di essere bene informati quando si sottoscrive ad esempio un contratto di mutuo. Questo, allora, mi sento di consigliare queste quattro pagine che oggi presentiamo sul Sole 24 Ore. Ti vorrei anche dire che, come già dicevo ieri, il reato di omicidio stradale, il disegno di legge sull'omicidio stradale, ha ottenuto il voto di fiducia. Ti spiega tutto naturalmente Maurizio Caprino nelle pagine, indovina un po' quali. Enorme tributi forse. Oh, bravissimo, che tu leggerai come sempre doviziosamente. Preferisci doviziosamente, può andare bene. Comunque anche attentamente in questo caso, per le questioni dell'omicidio stradale, che preciso non è ancora in vigore, manca ancora un voto della Camera a questo punto. E infine ti vorrei segnalare molte altre cose, ti vorrei dire caro Alessandro, ma tagliamo corto. Ti vorrei segnalare la sentenza a Milano che ha praticamente dato il via alla stepchild adoption, cioè hai presente, certo, quella cosa di cui tanto si discute, l'adozione in coppie appunto omosessuali da parte per il figlio del compagno o della compagna. Ecco, a Milano è successo, è stata riconosciuta una stepchild adoption. Trovi tutto, come sempre, leggendo religiosamente e doviziosamente norme e tributi. Certo. E a questo punto tanti cari auguri per una serena domenica calcistica, caro Alessandro, e soprattutto traffico! Alessandro Milan, il Fabrizio Fizzi dell'informazione. Fantastico, fantastico. Allora, un po' di politica c'è sui giornali, anche se la politica è assorbita tutta sulle vicende delle banche. Inizia la Leopolda, oggi il debutto di Sala al Leopolda, titola così a pagina 15 il Corriere della Sera. C'è però la polemica per esempio, perché due delle star che erano date presenti alla Leopolda, una è Federica Pellegrini, e l'altra l'astronauta Samantha Cristoforetti hanno detto non è vero, non verremo. Tra l'altro la Cristoforetti è stata protagonista anche di un siparietto col ministro Boschi che l'ha invitata, ma lei ha detto purtroppo ho altri impegni, e quindi alcuni giornali ironizzano sul fatto, insomma, Pellegrini e Cristoforetti danno il 2 di picche a Matteo Renzi. Comunque inizia la Leopolda, ma la notizia politica è più una notizia giudiziaria che prende più pagine sui giornali, è l'assoluzione per Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex presidente della provincia di Milano, che è stato per 4 anni e mezzo accusato di aver messo in piedi un sistema Sesto, cioè tangenti. Sistema Sesto, cadono le accuse, Penati assolto, come racconta Luigi Ferrarella, pagina 10 del Corriere della Sera, emersa nel luglio 2011, quando la GIP Anna Magelli negò l'arresto di Filippo Penati ai PM monzesi. La storia finisce ieri con la sentenza del Tribunale di Monza che assolve tutti da tutto, a cominciare proprio dall'ex sindaco di Sesto, Penati, e poi da tutti gli altri. 3 erano i filoni: i PM Franca Macchia e Walter Mapelli contestavano a Penati illeciti contributi elettorali per 363.000 euro nel periodo 2009-2011 e contestavano che gli fossero stati versati da 18 amministratori di società dietro lo schermo di una fondazione Fare Metropoli. Alla fine assoluzione perché il fatto non sussiste. C'è Filippo Penati che fa una serie di interviste su Repubblica, dice la prescrizione non c'entra, io non ho corrotto nessuno, ho dato la notizia per prima ai miei figli e poi come terza persona ho parlato con un frate. Non ho sentito, quindi dice Bersani subito, anche se Bersani, che aveva preso un po' le distanze politicamente da Penati, però su Facebook ha detto ho sempre avuto fiducia in Filippo, mentre Penati dice non ho sentito Matteo Renzi. Chissà se si toglierà ora qualche sassolino. Comunque non voglio dire nulla, per carità, dice al Corriere della Sera. Certo, la vicenda è abbastanza clamorosa. 4 anni e mezzo e poi il fatto non sussiste. Mentre continua la vicenda dei VatiLeaks con il quotidiano La Stampa, con Giacomo Galeazzi e Ilario Lombardo, che racconta che cosa? La bella vita, o meglio la vita al limite di Monsignor Balda. Ristoranti VIP, sesso, abiti griffati, cene ai costosi ristoranti Taverna Flavia e San Gallo ai Coronari, alcol, vestiti laici al posto del clergyman, aperitivi mondani, un personal trainer presentatogli dall'allora amica Francesca Sciauchi. E, insomma, il racconto della vita di Monsignor Balda, c'è anche una foto di lui che supera gli ostacoli saltando come un provetto calciatore, anche se il fisico non è proprio questo, evidentemente agli ordini del personal trainer. E, autisti che lo portavano in giro per l'Italia, insomma, ricostruite in un dossier la vita, la bella vita, o la vita al limite, appunto, per meglio dire, di Monsignor Balda. La trovate a pagina 16 della Stampa. Come detto sul Sole 24 Ore, ha detto Mauro Meazza, la vicenda di queste due madri, un bambino di due madri, c'è la notizia su tutti i giornali, una decisione del Tribunale di Milano che concede la piena e patria potestà a una mamma compagna di una donna che ha avuto un figlio in Spagna, quindi un bambino con due mamme in maniera totalmente legale per il tribunale. Ma eccoci qui, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali per chiudere una pagina del nostro amico Gabriele Romagnoli. Oggi la diamo a lui su Repubblica, la rivincita filosofica delle sitcom sulle serie TV. Questo, una pagina su Repubblica, più sitcom meno serie TV. Ma chi se ne frega!